un programma di Francesco Rigoni e Stefano Giacchè. Giochi di tutto. Tutto col gioco e niente per gioco. Caro Stefano, siamo in onda. Ciao. Caro Francesco, ben trovato. Ben trovato tu a Giochi di tutto, che è la nostra trasmissione. Oggi è il 3 settembre 2025, sono le 19.01, siamo in diretta su Radio Antidoto, o così mi piace pensare a me. Infatti adesso metterò una cuffietta, schiaccerò play e andrò in confusione totale, ma è importante verificare che ogni cosa sia al suo posto. Quindi tu mi stai dicendo che stai già spippolando e giocando con gli spippolini? Sì, spippolare è ormai diventata la mia seconda natura. E tu mi confermi che però l'audio, i nostri bei bonghettoni si sentono, quindi quelli li abbiamo, cioè tu li senti i bonghettoni? Molto ogni bassi. Tanto adesso arriva un bongo, okay. Un colpo singolo, però sì, tendenzialmente arrivano. Guarda, la tua risposta mi è arrivata forte e chiara dalla diretta di Radio Antidoto, quindi ci siamo. Ti ho anche aggiunto la chat di Telegram di Radio Antidoto, nella quale chissà se qualcuno si manifesterà. Un saluto, come piace dire, a chi ci ascolta nel presente ma anche nel futuro, perché ormai il podcasting così funziona. E questo è il primo episodio di un programma che stiamo ideando assieme, che si chiama Giochi di tutto. Tutto per gioco e nulla per gioco. Ho delle domande, ne abbiamo parlato fino a poco tempo fa, però io vorrei prima di tutto così già sovvertire l'ordine delle cose e parlare del titolo. Cosa stiamo dicendo con questo titolo? Secondo te, poi ti dico quello che penso io. Beh, siamo secondo me in un periodo un po' perché noi come generazione ci siamo proprio cresciuti anche con certe forme di gioco, al di là del fatto che eravamo tra i primi videogiocatori in assoluto, ma poi in ogni caso c'era proprio questa abitudine di avere tanti modi diversi di giocare. E soprattutto, visto che tanto tutti e due abbiamo anche la passione pure del board game, sì. Anche nel board game c'è stata un'esplosione degli ambienti, delle modalità, delle meccaniche, qualunque cosa veniva trasformata in gioco. Sì. Quindi l'idea che si giochi di tutto, per me per esempio, è una cosa bellissima. E poi, vabbè, il sottotitolo mi è particolarmente caro, ce l'ho per screen, ho scritto sul curriculum. Sì, così, perché quando uno è mitomane nell'anima, perché è una cosa che a me avevano insegnato con lo scoutismo, e che fa parte proprio del metodo scout, che è molto basato sul gioco. Certo. E quindi l'idea che il gioco è uno strumento, quindi tutto può essere insegnato tramite il gioco, ma il gioco non è un fine. E quindi soprattutto il niente per gioco, anche nel senso di dire gli diamo una serietà. Certo, perché poi vabbè, tra i vari valori che in teoria lo scoutismo trasmetterebbe c'è anche il senso di responsabilità, e quindi sì, d'accordo, stiamo giocando, però cerchiamo di essere seri mentre lo facciamo e dedichiamo, sì. Cioè, e facciamo le cose serie giocandoci su, quindi riuscendo a mettere insieme i due aspetti, che poi il motivo per cui ti ho proposto, e tu grazie per aver accettato di scrivere assieme questo programma che si scriverà assieme, perché l'idea è quella di navigare il mondo del gioco, dove il gioco finisce nelle cose serie e quindi le cose serie si fanno giocando, però allo stesso tempo anche il gioco deve essere preso un po' sul serio, tant'è che riagganciandomi un po' al discorso che hai fatto tu sul titolo e sulla vastità delle opportunità di giocare che abbiamo adesso, in senso come siamo abituati a pensarlo noi italiani rispetto al discorso play o care quelle robe lì, è che sì, adesso ci sono tanti modi diversi di giocare, tanti board game, tante meccaniche e tante altre cose che esploreremo anche in questa puntata. Però, e tra le altre cose, io ti posso dire che proprio stamattina una mia collega dell'università mi ha segnalato un evento di gioco dell'Università di Torino promosso dal Dipartimento di Chimica, perché ci sono tanti giovani ricercatori che trasformano il loro lavoro in board game per il public engagement, per la terza missione, ma anche per la ricerca stessa. Però questa, secondo me, è un'evoluzione che in Italia stiamo vivendo adesso, perché la nostra generazione in qualche maniera ha scoperto dall'estero questa ricchezza nel giocare, tipo il board game. Ci sono posti nel mondo, tipo la Germania, dove abbondano e strabordano da decenni. Però l'idea di guardare al gioco con serietà, non tanto giocare seriamente, ma guardare al gioco, all'attività del gioco con serietà, in Italia è una cosa recente, cioè ci è voluta un'altra generazione perché questa cosa potesse prendere effettivamente piede. E siccome io 10 anni fa ho fatto una trasmissione che parlava dei giochi, voleva essere da un punto di vista antropologico, quindi magari un po' diverso da quello che facciamo noi, e mi piaceva riprendere il filo di quel discorso, perché rimango ancora dell'idea che da un lato bisogna fare le cose serie giocando, e dall'altro lato bisogna prendere sul serio il gioco. E con questo fantastico cappello, ti vorrei buttare invece la prima domanda di scaletta, nel senso che siamo su Radio Antidoto, quindi un po' faccio gli onori di casa. E un po' mi Mi sento sembra anche, giusto. come dire, mi prendo un po' la responsabilità di fare lo host, proprio il conduttore, eh? E mentre, come dire, è anche un po' il vampiro, perché il mio desiderio è succhiarti tutti i contenuti, eccetera, eccetera, e cercando insomma di giocare una specie di tennis. Però ti devo introdurre alla platea di chi ci ascolta, cioè i nostri amici di Radio Antidoto e appunto il nostro ascoltatore, più casuale o del futuro. Quindi, caro Stefano, visto che ce l'ho scritta qui bella, grande, chiara, di che cosa ti occupi? Ah, tante cose e nulla. No, non è vero. E, al di là di quella che è stata tutta la mia formazione professionale, che non è strettamente collegata, io negli ultimi 20 anni ho iniziato ad avvicinarmi, intanto in maniera molto molto forte, appunto ai board game, soprattutto i German, quindi non più basati soltanto o prevalentemente sul tiro di dado, e da lì poi pian piano scoprire che, oh wow, esistono dei party game, esistono dei giochi che possono coinvolgere anche 20 persone e che ovviamente possono lavorare molto di più sulla relazione. Esistono dei giochi che sono basati esplicitamente sulla relazione. Il gioco di ruolo, diciamo classico, io l'ho sfiorato da ragazzo perché comunque era una cosa che in compagnia si faceva, e poi però ho scoperto che c'era la possibilità non soltanto di avere delle schede che ti ci voleva una serata solo a compilarle prima di iniziare a giocare. Ma in realtà serviva molto meno tempo a prepararsi e avevi molto più tempo a giocare. E quindi scoprire anche quello che è il LARP, quindi il gioco di ruolo dal vivo, per me è stata una delle tante esplosioni cerebrali che ho avuto il piacere di incontrare. Allora, ti fermo perché vorrei fare un po' di glossario. E questo è Giustamente. interessante perché potrebbe essere uno spazio del nostro programma. Perché tu hai citato due meccaniche. Hai citato il gioco alla tedesca e il Sì. party game. Allora, facciamo degli esempi. Cioè, cos'è un gioco tedesco? Citiamo un Ah. titolo. Adesso, io tra l'altro non sono ferratissimo su questa cosa, perché a me viene da dire Agricola, ma forse non è un gioco alla tedesca Agricola, o sì? Sì, fondamentalmente comunque, allora, tutti i giochi che hanno delle componenti anche di astrazione. che comunque abbiano una plancia in cui ci sia il ci sia la possibilità di rappresentare una rappresentazione del mondo, può essere un gioco in cui devi avere un'azione comunque strategica per poter vincere. Tendenzialmente sono giochi comunque competitivi. Quindi Risico può essere un gioco... Però Risico ha la componente dell'alea, che è la componente perché i dadi. È vero, i dadi che, insomma, secondo me torneranno spesso nelle conversazioni perché sono un elemento diabolico del gioco. Ti rispondo online, ci siamo bloccati a vicenda ai video, ma adesso ci rivediamo, perché naturalmente io e Stefano siamo su una web conference e ci guardiamo in faccia per le persone che invece ci ascoltano e basta. Risparmiamo i nostri volti, o quantomeno il mio, al nostro pubblico. E quindi, da un lato abbiamo appunto, come dicevi, i giochi di rappresentazione del mondo con una componente competitiva e, diciamo così, un approccio strategico, quindi appunto a me viene in mente le gestioni di risorse, ma probabilmente c'è anche dell'altro, e poi c'è il party game è più semplice da spiegare forse. Dipende. Il party game comunque è divertente. Esatto, diciamo che allora, vabbè, la cosa, tanto per chiudere la questione, due titoli classici potrebbero essere, sì, anche Agricola stessa, sicuramente i Coloni di Catan, Puerto Rico, certo. Sono tutti quanti, Carcassonne comunque è un gioco, sì, può stare tranquillamente, perché comunque la parte... E quella più importante proprio sull'aspetto della meccanica, quindi meccaniche di gioco più astratte, partite comunque tutto sommato brevi nel tempo, cioè, si cerca di non eccedere. Se Carcassonne sì, se Coloni di Catan no. e quindi ecco, diciamo che sono comunque dei giochi dove l'aspetto del caso all'inizio poteva essere proprio tendenzialmente assente. Sì. E la componentistica doveva essere comunque anche di qualità. Sì. Quindi. E soprattutto l'idea è che quello che può essere lasciato al caso non deve essere preponderante rispetto alla possibilità del giocatore di poter effettivamente decidere una propria strategia. Ok. Chiaro. In questo, diciamo, c'è molto anche il principio stesso devo essere in grado di, potrei dire quasi essere artefice del mio destino, forse persino eccessivo filosoficamente. Romantico? Però. Sì, beh sì, però... Non ne parliamo adesso del concetto di agency, no, però... Ma mi viene anche da dire, alla fine, vabbè, immagino che la definizione tedesco, German, insomma, sia dal fatto che sono giochi sviluppati, nati prevalentemente da designer tedeschi all'epoca, però c'è anche un po' una mentalità un po' teutonica, se vuoi, cioè sono io che stabilisco, come dire... i punti da seguire nello sviluppo della costruzione del mio destino tramite il gioco. Adesso la butto in filosofia così. Sì, questo secondo me però effettivamente lascia molto questo principio. Il fatto stesso che nasceva in un ambito anche di gioco per famiglie, e che quindi anche lì non riguarda soltanto degli adulti, ma potrebbe essere chiaramente un modo di giocare che debba coinvolgere contemporaneamente adulti e adolescenti o bambini. E non allora, devi stare a spiegare punto... perché il dado è il dado. Esattamente. E allora a questo punto mi deve entrare anche la possibilità che il bambino si senta di poter competere alla pari con il genitore. Bello. Bene, poi party game. Il party game ha un aspetto, secondo me, fondamentale, dove il divertimento vince completamente rispetto all'idea della competizione. C'è una competizione, Sì, ma chi se ne ma frega? esatto, è Chi la vuole vivere veramente. la vive, chi gli altri no. Sì, esatto. D'altronde è proprio l'idea stessa vabbè, la scena meravigliosa di Inglourious Basterds quando fanno il gioco del Ah, quello gorilla, sì, quello con la carta quello con la sulla carta sulla fronte, certo. fronte. Perfetto. Esempio classico di come un party game sia molto semplice, abbia probabilmente anche delle componentistiche ancora più basilari e anche delle regole altrettanto basilari. Perché? Perché deve essere più immediato, deve essere in grado di fare giocare molte più persone in una maniera molto più semplice. E vanno a lavorare su un pensiero che non è strategico. Più spesso potrebbe essere abilità di qualunque tipo, Sì. Beh, pensiero laterale pure. i party game a me piacciono, come penso gran parte delle persone. Poi ci sono i giocatori, quelli duri e puri, a cui piacciono un po' meno. Però a me piace perché, vabbè, coinvolgono tante persone diverse. Perché poi, per usare una terminologia un pochettino più tagliata con l'accetta, a essere nerd si diventa un tantinello selettivi e anche il gioco diventa meno giocoso. Quindi a me piace giocare con persone che non sono giocatori. E la cosa che fa sorridere dei party game è appunto il fatto che puoi vedere un po' tutta l'umanità. Cioè io sono abbastanza un beone quando gioco ai party game, non me ne frega niente, cioè mi voglio divertire. Però ci sono quelli che invece la strategia nel party game ce la vogliono trovare. Però appunto la caratteristica del party game è il divertimento collettivo, che Esatto. supera un pochettino, come dire, anche la dinamica del gioco stesso. Tra l'altro abbiamo inserito una parola che è la parola meccanica, che in realtà, come dire, è importante parlando di giochi, ma chiaramente se tu non sei dentro il mondo dei giochi la conosci fino a un certo punto. Anche l'aspetto delle componenti è un aspetto molto delicato nei giochi, ma se non te ne intendi te ne accorgi neanche. Ma secondo me sono tutti i territori che andremo a esplorare poco per volta. Però era interessante, come dire, vedere gli step, quindi prima il gioco, diciamo, strategico, anche un po' intellettuale, comunque fatto di un obiettivo e degli strumenti per raggiungerlo. Poi un gioco più collettivo, più scanzonato, poi il gioco di ruolo, che è un'esperienza molto diversa, però ancora è un'esperienza di gruppo intensa, e poi infine la LARP, che è un po' la cosa su cui effettivamente oggi vorrei concentrarmi con te. Così per darci il là, anche perché secondo me è come se fosse un'intersecazione di linee la LARP, o comunque nel senso sia una linea che parte da un'intersecazione, è lì, è questo il bello, sono territori che si sovrappongono gli uni con gli altri. Però prima di Assolutamente. questa mega pippa mentale tipicamente rigoniana, che cos'è la LARP? Intanto io adoro il fatto che usi l'articolo femminile. Non mi Perché? era Ah, mai l'ARP. capitato. Sì, non mi era mai Ah. capitato di sentirlo, ma non perché sia sbagliato, attenzione. Cioè, una cosa che ho imparato nella vita è proprio che ma effettivamente, weekend è fine settimana, ci vorrebbe La la weekend. weekend. Però Quindi. è la fine del. Eh sì, la weekend. Gesù. Ma in realtà la spiegazione è Mentre molto banale, perché l'ARP mi ricorda l'ARC. Cioè l'azienda dei laboratori, e quindi per assimilazione per me è femminile. E Ok. anche perché c'è la parola ARPA che è femminile in mezzo, quindi la LARP. Però è vero, è il LARP, Live Action Role Playing. Vabbè, Che però anche lì però nessuno è più bello l'abbia, la esatto. LARP. Anche perché Infatti. la LARP, capito? Hai questo pasta alla bocca. Ma al di là del genere, che tra l'altro è un tema non secondario all'interno del mondo LARP, niente, vabbè, la sigla è semplice. Veramente lo puoi tradurre come gioco di ruolo dal vivo. Certo. Che vuol dire? Di nuovo, tutto e niente. Quindi, ok, il principio del gioco di ruolo, il che significa che interpreto un ruolo che non sono direttamente io. Tendenzialmente va così. Lo faccio però con una totale disintermediazione, cioè non lo faccio tramite la rappresentazione esterna. Quindi, per esempio, sul gioco da tavolo, ma in realtà anche sui giochi di ruolo, diciamo così, classici, tendenzialmente tu hai la tua miniatura che ti rappresenta. Certo. La macchinina del Monopoli. La macchinina del Monopoli, esatto. Mentre invece, in questo caso, sei tu stesso che sei il tuo corpo e sei il tuo personaggio. In che forma? Dipende, nel senso che esistono come concetto principalmente quelli che vengono chiamati chamber LARP, LARP da camera, quindi sono dei LARP che si svolgono all'interno di appunto una stanza, purché sia, e che hanno una durata molto breve. Quindi tendenzialmente hanno una durata come di una partita a un board game normale. Stai sulle 2 o 3 ore tra la spiegazione, il setup e il gioco in sé. Bene, io ti interrompo perché voglio fare un passo indietro. Perché Vai. in effetti già hai buttato dentro un concetto che io, tra l'altro, non conoscevo assolutamente. Perché gioco di ruolo nell'immaginario collettivo e anche televisivo è Dungeons and Dragons, senza starci a Certo. girare troppo attorno. Certo, Poi, sì, è quello. se tu sei uno che gioca di ruolo, poi diventa, come dire, amico, conoscente, consapevole dell'esistenza di altri giochi di ruolo, come per esempio, che ne so, sto giocando al videogame di Cyberpunk, quindi Cyberpunk, Bello. bellissimo, bellissimo anche il videogame. E, però, appunto, man mano che tu esplori il gioco di ruolo, scopri appunto che c'è dell'altro oltre agli elfi e alle principesse e alle spade. Il gioco di ruolo dal vivo, per esempio, quello che conoscevo io e che forse una barra due volte ho anche praticato, era quello basato su quell'immaginario dove te vestivi le stracci per Sì. sembrare un cavaliere e all'aperto, appunto con una storia che ha a che fare comunque con quell'immaginario Tolkieniano, adesso fuori dai denti, In nel larga senso. parte sì, perché sono quelle che veramente sono le cose che più ci hanno sempre colpito, in Esatto. quel senso, è vero. Detto questo, quello che io ho capito tramite te, anche se poi di fatto non ho esplorato questo mondo e questa prima puntata la dedico idealmente all'ARP o alla LARP, così anche per dare a noi stessi il là di questo format, è: ma quindi c'è live action roleplay anche di altre cose? Di qualsiasi cosa, di nuovo, perché veramente giochi di tutto. Ti dico di più, io la prima volta che venni a contatto con l'idea del gioco di ruolo dal vivo era quando sentii parlare la prima volta di On Stage, che era in realtà un gioco di ruolo, tra virgolette, più o meno, diciamo, vecchio stile, per così dire. Però l'idea era che tu mettevi in scena delle scene shakespeariane. Cioè, quindi E quindi giocavi di ruolo Shakespeare. esattamente, esattamente. E come Cosa che funziona? peraltro allora ti dirò, non ci ho mai giocato purtroppo. Ah. È Dai, mi purtroppo facci sì. sapere. Vengo di Quello corsa. assolutamente sì, potrei anche tirare fuori tranquillamente qualcuno che invece ci ha giocato. Però ecco, per quello che mi ricordo, Ok. dovevi praticamente, infatti era proprio una roba al confine, tant'è che stava, adesso ne ho approfittato, mi dispiace, Sei andato. svelo gli altarini, ho aperto Wikipedia. E Ah, no, di infatti, tutte. beh, chiaramente, però effettivamente, viene proprio messo, dice, al confine tra i giochi di ruolo tradizionali, i giochi di narrazione e l'improvvisazione teatrale. L'idea era proprio quella che fosse ci fosse un regista che doveva costruire e dichiarare delle scene Ok. i partecipanti avrebbero dovuto partecipare. E poi dice: partite suddivise in atti e scene, durante le quali i giocatori possono utilizzare delle frasi fatte, ovvero delle carte che permettono di attivare eventi catastrofici, annullare le azioni di altri giocatori o entrare e uscire dalla scena. Prima Ma di ogni quindi scena, dimmi. aiutami a capire, cioè è una sorta di... Ma non è improvvisazione teatrale, però. No, è un gioco molto narrativo, vedendolo così. E che cosa interpreti? Tu dovresti interpretare l'attore che interpreta la scena. Quindi è un metagioco. È un metagioco. Quindi tu stai giocando di ruolo il teatro, ma non la messa in scena teatrale, ma la preparazione della messa in scena teatrale, Sì, in epoca però. shakespeariana. Esatto, che però da questo punto di vista dovrebbe esserci come doppio, doppia parte del gioco. E quindi per fare un esempio di LARP in questo caso, Sì. perché noi sappiamo che nel gioco di ruolo dal vivo, nel gioco di ruolo, perdonami, tradizionale, ci sono i giocatori attorno a un tavolo e poi un tizio che per sua magnanimità, non capirò mai qual è il motivo per cui lo faccia, tra l'altro io ho iniziato facendolo, ma ho capito subito che era stupido e sbagliato, perché non è divertente, però chi lo fa mi garantisce che invece lo è. Bontà loro, c'è il master. Quindi tu mi dirai che è la stessa cosa nell'ARP. Può essere masterless. È più un concetto Masterless. di, sì, è più un concetto di facilitatore. Per quello che è la mia esperienza, è semplicemente il fatto che qualcuno si è letto prima le regole e le ha elaborate ed è in grado di spiegarle. È come se appunto tu apri un gioco da tavolo per la prima volta, se tu lo apri e ti metti lì a leggere, capire tutti quanti i pezzi, così passi 4 ore a fare il setup e Sì, metti via. hai automaticamente vinto il ruolo di master. Esatto, quindi la cosa migliore è, vabbè, allora il proprietario del gioco o chi c'ha tempo, almeno con i nostri amici giochiamo così, fai prima la preparazione delle regole, capisce tutto e le spiega agli altri in modo da poter raggruppare. Il principio è lo stesso, cioè se qualcuno si prende l'onere di leggere e spiegare è più facile. Il master ha un compito in più, che è quello di guidare l'avventura. E è un bellissimo ruolo se giocato nell'idea del far divertire gli altri. Perché Certo. reagisci a quello che gli altri fanno. E chiaramente lì diventa proprio il piacere di in realtà giocare assieme, a mettersi un pochino anche in difficoltà, tra virgolette. Però volendo fare un passo all'indietro, nel senso per Sì. ritornare un attimo a guardare l'ARP, la LARP da una certa distanza, quali sono le regole della LARP? Perché per esempio, mentre tu mi raccontavi appunto questo ruolo un po' diverso del master, a me è venuto in mente, sì, però nel gioco di ruolo, anche se quelli bravi o comunque c'è una wave che io amo e preferisco, che vuole usare meno possibile il dado, però noi sappiamo che nel caro vecchio gioco di ruolo tradizionale a un certo punto si tira un dado per dire sì, ce l'hai fatta o no, non ce l'hai fatta. Allora, però quella è parte di un set di regole, se vuoi. Peraltro, se vuoi, ci sono fior fior di libri alti così che te devi studiare manco la ragioneria, ed effettivamente il gioco di ruolo tradizionale le regole ce le ha. Quali sono le regole del gioco dell'ARP? A parte che fondamentalmente dipende, e questa sarà la parola che probabilmente utilizzerò di più in tutta Certo. questa chiacchierata. Allora, il principio fondamentale è che ogni giocatore di norma ha effettivamente una scheda, che Ok. può essere fatta di 3 righe come di pagine intere. È anche vero che se devo giocare in un'ora di tempo bisogna che le informazioni che io ti do a disposizione siano poche. Certo. Perché, e questa è una cosa fondamentale, meno devi imparare, più vivi. Perché ovviamente, cioè, se tu devi fare affidamento sulla memoria, allora Certo. va bene, vado a fare veramente uno spettacolo teatrale, è un'altra roba. Capito. Sì, infatti una scheda di tante pagine, stavo già pensando, vabbè, un copione, ma a quel punto mi è scritto un copione. Esatto, ma infatti il discorso è anche quanto deve durare. Nell'esempio che facevi tu, che per esempio è un mondo dell'ARP che io non ho mai vissuto, quello del, appunto, ci troviamo in un bosco e facciamo a spadate dalle 9 del mattino alle 5 di sera. Sì, si faceva, ho degli amici l'ARPer che lo facevano. Quindi Con sono... un'inquietante somiglianza a software, peraltro. Sì, esatto, che anche lì il software da questo punto di vista potrebbe essere qualcosa di molto vicino se ci fosse quel po' di lore in più, come nel videogioco, in cui effettivamente Sì, se tu costruisci... interpretassi qualcuno, cioè Esatto. perché poi, vabbè, questo lo diciamo anche a beneficio di chi non è troppo dentro queste cose di nerdismo, ma io prometto che ne usciremo, cioè, o almeno faremo Voglio. capire qual è il punto per cui, peraltro, sta diventando una cosa così anche popolare. Il gioco di ruolo, restando anche su quello tradizionale, senza scomodare il live action, che come stiamo vedendo è molto complesso, si distingue da tutta un'altra serie di tipologie di gioco. Citiamo il software che, per chi non lo conosce, è spararsi coi pallini di gomma o con la vernice. In Italia è più classico il pallino di gomma della vernice. Oppure il famoso Warhammer che vedete nei negozi in giro per le vostre città, che hanno delle scritte grosse così di Warhammer e vendono solo quello, vanno avanti da 30 anni. Tu ti chiedi perché? Ebbene, perché è un simulatore di battaglia. Lì tu non interpreti nessuno, cioè non stai trasformandoti in un personaggio. Sei o un generale o un combattente e combatti una battaglia, lo scopo è vincerla. Poi, tipo, i Warhammer l'hanno anche costruita una lore e c'è una lunga tradizione, adesso ci sono cartoni animati, ci sono film, c'è di tutto, e videogame, eccetera, eccetera. Però, detto questo, il gioco principale è un normalissimo gioco di strategia con miniature molto molto bello. Io non ci ho mai giocato, però le miniature sono spettacolari, insomma, è tutto molto bello, molto curato. Però non è gioco di ruolo perché tu non stai assumendo quel famoso ruolo di un qualcun altro che, per tornare di nuovo dentro alla live action, poi naturalmente correggimi se dico castronerie, però che in qualche maniera la live action, quindi il gioco di ruolo dal vivo, sublima, perché il foglio di carta e i dadi non è che te li puoi portare dietro sempre, magari ce li hai in tasca, però non è che li stai usando più di tanto. E poi realizzi quello che è poi alla fine è un po' il tuo sogno, nel senso, se tu anche restando sul fantasy, è chiaro che tu sei felice perché finalmente diventi a pieno titolo il tuo personaggio. Io me l'ho fatto fare il costume apposta da Denil il druido, grazie a Dio non l'ho messo mai perché era una toga verde con un cordino blu, bellissimo, fatto da mia nonna, quindi perfetto. Detto questo, io ero felice come una Pasqua perché avrei potuto diventare, per un tot di ore di una giornata X, il mio personaggio, il mio alter ego più a cui sono più legato. Però, appunto, la cosa bella di questa cosa, che peraltro può essere anche conosciuta ai più perché in qualche maniera è trapelata, insomma, prima era una roba veramente estremamente nerd, è diventata una cosa molto più sofisticata, per cui appunto adesso mi hai citato la possibilità di un LARP masterless. Che a me mi fa partire de capoccia, perché boh, come fai a fare una LARP senza master? Però le componenti fondamentali sono l'interpretazione e il gruppo. Sì, assolutamente. E tra l'altro la cosa meravigliosa è proprio il fatto che il gruppo può essere sia qualcosa che è già formato, sia anche che accoglie persone che invece non si conoscono fra loro. Certo. Esperienze vissute in prima persona. Anche perché all'inizio è così per forza. Perché Vabbè, sì. tendenzialmente c'è qualcuno che ti tira dentro. Sì. È come la droga, la prima volta è gratis e poi... Sì, poi tra le altre cose, come dire, cioè non è che tutti i giocatori di ruolo tradizionali poi abbiano veramente voglia di fare gioco di ruolo dal vivo. Per esempio, io no, nel senso sì, a parte quel momento di lucida follia o follia non per nulla lucida di voler fare Neil Druido, poi la voglia di mettermi a fare gioco di ruolo dal vivo non ce l'ho più avuta, anche perché il gioco di ruolo dal vivo poi quell'interpretazione, questo è un aspetto che volevo anche un po' sollevare, quell'interpretazione. Perché appunto il masterless, cioè vorrei tornare alla figura del master, perché il master è anche importante? Perché l'interpretazione, se te non sei studiato, ti può anche dare la testa. Cioè, il gioco di ruolo dal vivo è un gioco molto sofisticato perché bisogna sapersi dare dei limiti interpersonali. Esatto. Lì, per esempio, visto che volevo tornare un attimo al discorso delle regole, Certo. ti porto un esempio, ma perché è qualcosa che magari anche chi ci ascolta potrebbe avere visto, magari anche a Lucca o a Play, Certo. perché è un libro fisico. Si chiama Prima Vennero. Ok. Gli autori sono Alessandro Giovannucci e mi sembra di poter dire che, vabbè, tra i preautori c'era sicuramente Oscar Biffi. Comunque, principalmente sono gli autori, fanno parte della Chaos League, che è il gruppo con il quale di solito gioco io. Prima Vennero è un gioco che si gioca da 3 a 5 persone. Si svolge in un condominio della Berlino del 1942. C'è un'irruzione della Gestapo. Gli abitanti si rifugiano tutti in soffitta perché tutti quanti potrebbero essere quello che stanno cercando, quelli della Gestapo. Wow. Il gioco si gioca bendati o al buio per simulare comunque la soffitta. Ognuno dei giocatori ha una scheda personaggio, ci sono sei possibili personaggi, ognuno dei quali può essere giocato al maschile o al femminile. Ognuna di queste sei schede racconta fondamentalmente una delle principali minoranze oppresse dal nazismo. Quindi non c'è soltanto l'ebreo, ci può essere il comunista, il testimone di Geova, il rom, il disabile, l'omosessuale. Questo significa che ognuno di noi è chiamato a mettersi nei panni di una di queste persone, ma queste persone non sono solo delle vittime, sono sia parte del problema, sia parte della possibile soluzione. Cioè, tutti quanti, in quanto esseri umani, hanno fatto qualcosa nel loro passato che comunque non li fa sentire automaticamente redenti. Ah no, io sono sicuramente quello che stanno venendo a cercare perché sono quello buono. Qui nessuno è buono e nessuno è cattivo. Tra le altre cose, mi inserisco per chiarire un'altra cosa ancora. La LARP non è un escape room. No, ci sono degli aspetti diversi. Ovviamente, però possono essere entrambi strumenti educativi, Certo. possono essere entrambi strumenti sia di divertimento che banalmente appunto Lo dicevo di perché esperienza. descrivendo la meccanica, chiuso in una stanza, bendati, con come dire, un'irruzione imminente, come dire, hanno tutti. È vero. Sembra che tu stia descrivendo un escape room, ma in un escape room tu non interpreti qualcuno, tendenzialmente. Esatto, è vero, è vero. Inoltre, l'idea qual è? Che tu non abbia realmente un enigma da risolvere, a differenza di un escape room o di un escape box. Esatto. Lì tu devi andare a scoprire chi sono quelli che stanno con te. Quindi devi cominciare improvvisamente a creare una relazione per capire: ci sarà qualcuno che si sacrificherà per il bene comune? O le cose andranno male per tutti. E in ogni caso le cose vanno male. Per qualcuno di sicuro. Questo è un insegnamento, per esempio, che si insiste tantissimo nell'ARP. Poi Poi anche qui esistono, diciamo, filosofie diverse, però il play to lose, cioè il fatto di... Cos'è? È una definizione che appunto Alessandro Giovannucci dà spesso di quello che è il tuo personaggio nell'ARP. Il personaggio che tu interpreti nell'ARP è come una macchina rubata per andare a fare una rapina. Carino. Vai, falla, devi distruggerlo perché tanto la molli a bordo della strada e non serve, Sì, e in non ti effetti rendono. c'è un aspetto cioè perché ecco, vedi, ci sono due cose che ti vorrei chiedere a riguardo. La prima è, essendo un gioco di ruolo, chi ha esperienza di gioco di ruolo sa che il gioco di ruolo non ha uno scopo se non lo giochi in sé, cioè è chiaro che tu giochi un'avventura dove di tanto in tanto ti verrà chiesto di avere un obiettivo, conquista il tesoro, salva il re, sconfiggi il mostro, bla bla bla bla. Lo fai perché ti piace abitare quel contesto di fantasia con la tua fantasia per un paio d'orette, una volta a settimana, una volta al mese, le volte che riesci a farlo, con delle persone che ti stanno simpatiche. In un gioco come quello che hai descritto tu, Prima Vennero, giusto? Si chiama? Sì, esatto. In un gioco come Prima Vennero, come funziona la cornice? Cioè, ha una durata? C'è un momento in cui dici, boh, ne è finita? Oppure, nel senso, potenzialmente potrebbe andare avanti, ci vediamo il mese prossimo, ci vediamo tra 3 mesi, ci No, vediamo la settimana prossima? questo è proprio un esempio abbastanza forte di Chamber LARP, quindi si svolge appunto fisicamente in un unico spazio. E ha una durata fissa. Quindi esistono anche in realtà dei LARP che finiscono per diventare quasi reenaction in certi casi, cioè gente che sono anni che ricostruisce un villaggio longobardo, Ok, che roba così. Sì, rigioca lo stesso gioco più e più volte. esatto. Ci sono associazioni anche in Italia che giocano LARP continuativi, quindi ogni mese c'è un weekend in cui porti avanti il tuo personaggio. E in questo caso no, la durata è fissa ed è dettata da un voice over, quindi c'è una registrazione audio che ti porta avanti il tempo perché è l'irruzione della Gestapo nei vari appartamenti, quindi succede anche qualcosa. Fino a quando, ma questo pure viene spiegato in fase di facilitazione, non si sente che, ok, hanno esaurito gli appartamenti, stanno per arrivare. E quindi deve succedere qualcosa, perché se non succede niente, la traccia audio semplicemente va avanti e dicono, Vanno sparato a tutti quanti. vi hanno beccato, esatto. Ma quindi, cioè, in Prima Vennero ci si può salvare? Nì. Sì, esiste la possibilità, che infatti dicevo il discorso del capro espiatorio, ma non è io giocatore che dico va bene, basta, mi faccio trovare io e a voi vi salvo. No, in maniera nascosta, ciascuno dei giocatori può votare. Semplicemente con un tocco leggero, quindi sulla spalla o sul ginocchio, qualcuno degli altri giocatori, perché pensa che quel personaggio abbia motivo, abbia delle speranze, per cui se Ma questo voti per si... per salvarlo o voti per farlo catturare? farlo uscire. Per farlo uscire nel senso salvarsi. E tendenzialmente se esci sicuramente verrai fucilato, ma nel Ah, frattempo ok. dici... Però uscire dalla casa, cioè nel senso sì, quello in un realismo generale, storico, però nel gioco Esatto. l'uscita dall'appartamento equivale al salvarsi Per dall'irruzione. salvare gli altri, esatto. Quindi è il gruppo che deve prendere questa decisione forte. E non c'è la decisione contraria, cioè il... No, no. Wow. Se qualcuno ha la maggioranza assoluta dei voti, allora il resto del gruppo si salva. E anche questo è molto faticoso da raggiungere perché Certo. è una scelta che non è semplice da portare a termine. Ma anche perché anni e anni di un certo tipo di cultura, cioè... anche come ti insegnano la storia e tutto il resto, è più facile la delazione. Cioè, ci hanno insegnato Esatto. che l'istinto più corretto sarebbe la delazione. Poi appunto vai a sapere se. Cioè, e quindi siamo tutti abituati, almeno noi italiani sicuramente, che prima mi salvo io e poi forse eventualmente se va bene salvo te. Però è chiaro che se so che ci sta il cattivissimo nazista che sta arrivando a casa mia, io ti faccio trovare fuori il mio bel amico che sarà della categoria fuori dalla porta. Però invece in questo gioco ti viene chiesto di fare il contrario. Esatto, e quindi devi fare i conti con la tua coscienza. E Certo. tu nel frattempo ti sei costruito l'idea del tuo personaggio, perché tu hai una serie di Certo. informazioni molto limitate, quindi tutto quello che non ti viene detto in esplicito sono degli spazi bianchi da riempire. Certo, certo. E quindi ci metti tu quello che senti coerente. Certo. Quindi c'è quello che nel gergo, e poi ci torneremo sicuramente, è il cosiddetto bleed. Cioè, è quel trapasso che c'è tra il giocatore e il personaggio. Ah, ok. Sì, E perché io lo quindi c'è. conosco applicato all'editoria, il bleed. Cioè, Sì, che è il sanguinamento. sì, è la parte di foglio che devi tenere in considerazione quando tagli il foglio perché poi venga stampato il testo. Cioè, Ah, ok. nell'immaginazione c'è una cosa che si chiama bleed, che è il bordo che ti concedi sapendo che quel pezzo di testo salterà perché verrà tagliato da delle macchine. Ed è un Ah, ok, no, confine. invece pensavo che fosse più un trapasso di inchiostro tra una No, no, pagina e no. l'altra, vedi? Ok. È il Lì margine invece di la coscienza è sicurezza. quella. È il margine di sicurezza. Ok, interessante. Qui è il fatto invece che tu non possa del tutto staccare te e il tuo personaggio. Certo. Quindi sicuramente il personaggio prenderà roba tua, ma più sarà lunga l'esperienza e più ti porterai appresso roba del personaggio. Certo. E quindi poi tendenzialmente, soprattutto in LARP immersivi, quindi che durano anche giorni, tendenzialmente c'è tutta un'attività di debriefing finale in cui ti stacchi dal personaggio, Tra perché hai l'altro, proprio bisogno. no, no, vai, vai, te ne hai No, bisogno. figurati, è proprio bisogno di chiudere quell'esperienza. Ma infatti, come dire, adesso sono contento perché mi hai agganciato, perché mancano una decina di minuti, qualcosa in più, alla conclusione di questo primo episodio, che è naturalmente volato perché c'era molto da dire. Stiamo entrando nel territorio di giochi di tutto, cioè. Non è che noi, caro amico che ci ascolti, nel presente e nel futuro abbiamo voluto parlare di gioco di ruolo dal vivo perché siamo due nerdos folli che non riescono a smettere di parlare di sta roba tutto il tempo, ma perché in realtà ci sono delle esperienze nel giocare e la LARP in questo è un esempio pazzesco perché è tutto sul campo, cioè è tutto lì dove la vita e il gioco cominciano a sovrapporsi in una maniera che in realtà ha bisogno anche di consapevolezza, di lavoro. Paradossale, è un gioco dove se tu ci vai convinto che ti divertirai e basta, forse sei un po' ingenuo, forse non sai cosa potrebbe succederti. Perché dipende anche dal tipo di gioco, naturalmente, però l'esempio che Stefano ci ha portato è perfetto perché ti dice. Ci sono giochi tu dove interpreti dei ruoli e li stai interpretando perché il tuo corpo non è una pedina, sei tu persona, dove dovrai mettere qualcosa di tuo, perché ogni volta che si interpreta ci si mette qualcosa di suo. Il teatro insegna, la musica insegna, tutto insegna per la verità. Per cui una cosa come l'ARP è un gioco, ma è anche un non gioco, nel senso che come in altre pratiche, per esempio la roba del debriefing la conosco per via dello psicodramma. In una cosa come l'ARP, a un certo punto, pur essendo un gioco, pur essendo un'esperienza ludica, potrebbe esserci bisogno che qualcuno da fuori del gioco, perché di solito il debriefing funziona così, cioè è più sano se sia così, se è così. Sì. Qualcuno da fuori del gioco ti dirà: guarda, che questo è stato tutto un gioco, tu non sei la persona che hai interpretato fino adesso. Quella persona lì, come hai detto tu, è l'auto per la rapina, è morta, non c'è più, cioè non te la porti più dietro. Però è importante. E secondo me, l'esempio dell'ARP nel primo episodio è perfetto per calarci in quello che sarà poi il nostro viaggio, cioè il viaggio in cui in realtà sì, stiamo parlando forse di giochi, ma forse anche no, nel senso, anzi, più no che sì. Certo, oggi abbiamo parlato di cose che le persone fanno nel tempo libero per svagarsi. È curioso nel tempo libero per svagarsi interpretare cinque cristiani perseguitati dai Anzi, no, nazisti. poi tanto questo è un. Io l'ho voluto usare proprio per anche far vedere che uno pensa appunto al gioco come attività che automaticamente deve divertire. Esatto. In realtà, una cosa che è stata abbastanza sdoganata negli anni è il principio che in realtà il gioco deve emozionare. Esatto, bello, bello, sì, non si poteva dire meglio. Ed è questo il punto, secondo me, poi un po' che andremo a vedere, perché io avevo, come tu sai, avevamo una scaletta di domande che usciva dalla LARP per entrare, diciamo, nella vita vera. Anche lì, Sì. questi confini, come spero, sfumeranno, diventerà tutto più difficile da capire. Però il discorso è che magari divertirsi è emozionarsi, svagarsi è emozionarsi. Lo svago è usare la mente, però per fare qualcosa che ti metti in uno stato di tensione, perché d'altronde anche correre 20 km non è tutto sto spasso, se vai a ben guardare. Però c'è gente che si appassiona e lo fa, perché l'esperienza del gioco, del divertimento, continuiamo a usare questa parola perché è bella usarla per poterla poi smontare, per demistificarla. Il divertimento è una cosa meno banale di quello che siamo abituati a farci raccontare poi da che cosa? Dai mezzi di comunicazione, perché poi siamo tutti vittime di questo bombardamento di concetti da fuori a dentro. Però se vai a scavare, tutto sommato, ci si diverte in modi molto diversi. E soprattutto il divertimento è qualcosa che tu poi vuoi cercare anche nella vita di tutti i giorni. Cioè, poi in particolare noi paesi industrializzati, piriparaparapà, ce lo possiamo anche permettere. Nel senso, io voglio andare a lavorare e divertirmi pure. Però è vero che la qualità del divertimento incide anche sulla vita reale. E quindi in qualche maniera anche viverla giocosamente, però quello che è gioco non è uguale per tutti, cioè non è per forza il party game, non è per forza i coriandoli e i trenini. Esatto, anzi, io ammetto di essere estremamente ignorante, ma contemporaneamente estremamente incuriosito di tutto quello che è il mondo non europeo e su come si approccia sia al gioco in sé come attività, ma anche alle cose che effettivamente piace giocare, alle attività che vengono vissute come gioco. Perché poi viene di conseguenza anche la domanda: cosa ti diverte? Perché è vero che l'espressione, per esempio, legata all'emozione è sostanzialmente la stessa in tutto il mondo, almeno su quelle di base. Però non vuol dire che si generi con le stesse modalità con cui le viviamo noi. Eh sì, infatti, come dire, il sogno è quello appunto che questo sia il primo capitolo, mettiamo così, di questo racconto, però che questo racconto possa un po' veleggiarci anche oltre questi confini. L'intenzione adesso, perché per giocare, tra virgolette, a carte scoperte, usare anche questa formula molto divertente, per giocare a carte scoperte, l'idea era di traslare, diciamo, l'esperienza della LARP, la tua esperienza della LARP, nel mondo della formazione del lavoro e nel mondo del teatro, perché poi il teatro ci rincorrerà tutto il tempo, secondo me, Assolutamente, sì. ci rincorrerà e infesterà i nostri sogni. Però il discorso è proprio questo, cioè il fatto è perché la nostra trasmissione, così facciamo, guarda che bello, facciamo il cerchio completo, che goduria, perché la nostra trasmissione si chiama Giochi di tutto? Non per dire che tu giochi qualunque cosa. Nel senso che, sì, per carità, in italiano vuol dire quello, giochi di tutto, no? Che cosa ti piace giocare? Bah, un po' di tutto, un po' come quelli che chiedi qual è la tua musica preferita. Ma io ascolto un po' di tutto. Non è giochi di tutto inteso in quel senso lì, ma è giochi di tutto nel senso che in qualsiasi cosa tu stai facendo, stai giocando. O quantomeno, nel senso, c'è una componente di gioco che per te è scontata, ma in realtà non è scontata affatto. E anzi, è molto probabile che il gioco a cui stai giocando, cioè il prodotto gioco, quindi il gioco in scatola, il videogame, sia andato a scovare quell'elemento lì dalla tua vita per trasformarlo in un gioco. Le quantità di satori che la gente ha. Te ne racconto una molto, molto breve. Vai. Io ho un gioco da tavolo che si chiama La ricerca della felicità. È uscito, secondo Nei me, almeno coglioni. 10, sì, almeno 10 anni, Ok. quindi non è neanche nuovissimo. E mi capitò di portarmelo dietro. Facevano questa unconference, già ormai da un po' di anni, che si chiama Play 14, che facevano anche, fanno anche in Italia in realtà, in cui appunto si volevano proporre attività di gioco che dovessero servire in ambito lavorativo. Quindi già cominciamo a buttare lì. Io mi portai come momento un po' di scambio alcuni giochi, sia party game che giochi da tavolo. Alcuni perché mi serviva anche per far vedere i giochi cooperativi. Quello Certo. l'ho portato invece in esplicito perché è molto intrigante. Perché il suo principio base è che tu hai come unità di lavoro, quindi a ogni turno hai 6 clessidre, che è il tempo che tu hai a disposizione. Ok. E tu devi decidere in quali modi spenderlo. Quindi, vuoi un lavoro? A che livello? E quindi puoi richiedere una o due clessidre. Vuoi una relazione? A che livello? Ok. Cioè, ne vuoi due? Perché puoi avere anche l'amante. Però ovviamente è time consuming in una maniera impressionante. Certo. Tutta questa roba qui, però, ti faceva andare avanti, ma soltanto certe cose ti potevano dare felicità a breve termine, quindi quella soddisfazione immediata, o felicità a lungo termine. Ok. E la gente scopriva Che è una specie che perché di Sims da tavolo, praticamente. esatto, ma qual è la cosa che tutti quanti fanno? In genere scelgono una delle due strade: replico la mia vita oppure provo a fare quello che avrei sempre sognato di fare. Siccome Per arriva a un certo punto scoprire in cui che ti consumava l'anima molto prima della tua vita, qualcosa del genere. io ho avuto della gente che pensava anche appunto di insegnare tramite il gioco, che mi ha detto: non mi ero mai reso conto di come stessi distribuendo male, tra virgolette, il mio tempo. Adesso lo vado a cercare. Ci voglio giocare. A parte che io i Sims li ho sempre uccisi, poveracci. Sempre isterici, Ovviamente, perché era quello la parte sporchi. Ma non l'ho divertente. mai fatto apposta. Io volevo fargli fare una vita normale, ma poi ero incapace di disciplinarli, perché ero incapace di disciplinare me stesso. Però sì, nel senso adesso siamo praticamente a chiusura e secondo me questo esempio è veramente una gran bella frecciata, un bel dardo scoccato, centro perfetto per far capire esattamente dove stiamo andando a parare. Cioè, il gioco come specchio, ed esercizio anche, della nostra esistenza. Quindi, salutandoti, io faccio, come dire, un po' un lavoro con l'istituzionale, quindi ricordo a tutti che è ancora mercoledì 3 settembre 2025, sono le 19:58 e questa era Giochi di Tutto, Tutto per Gioco e Nulla per Gioco. E questo programma, nelle nostre intenzioni, che in realtà un po' tirannicamente dico le mie, però insomma, non hai obiettato, quindi va bene, Finora no. è mensile, un po' per impegni personali, ma un po' anche perché io personalmente voglio avere il tempo di pensarci alle cose, cioè nel senso preferisco farmi una trasmissione come questa una volta al mese che poi rincorrere ospiti, argomenti, ogni settimana, sigle, post, così, per avere gusto nel parlare di qualcosa che ci piace molto e anche scoprire cose interessanti come i due giochi che hai citato, Prima vennero e la ricerca della felicità. La ricerca della felicità. Dopo magari mettiamo anche i link. Ma sì, se mi li giri poi farò. Tanto sarà tutto disponibile sul sito di Radio Antidoto per il riascolto, tutti i rimbalzi social, tutti i merleti, i substack di vario tipo. Io, Stefano, ti ringrazio per aver iniziato questo viaggio con me. Grazie a te che mi hai voluto condurre in questo viaggio, Ah, quindi grazie. figurati, mi affido alla tua, come dire, conoscenza di questo mondo. Sarai un po' il mio Virgilio e un po' anche il mio Bianconiglio. Bello, bello. L'unica sfiga è che è una macchina che ci deve durare almeno qualche puntata, non la possiamo abbandonare a No, bordo no, no, strada subito. sto giro no, non sarà la macchina dei furti. Io mi sono posto l'obiettivo 10 puntate, quindi 10 mesi, tempo di andare in vacanza e poi andiamo al mare e pensiamo, ma che cagata che ho fatto, basta. Oppure, ma sai che c'è, mi sono divertito, ne faccio altre 10, vedremo. E nel frattempo auguro buona serata a te, auguro buona serata ai nostri ospiti, comunicazione tecnica per te, visto che sono anche regista dell'episodio, quindi un po' un casino. Adesso mando la sigla, ma ci sgancio così noi possiamo conversare in santa pace ancora per ore e Dai. ore sui giochi. Un saluto a tutti gli ascoltatori del presente e del futuro. E ciao Stefano e buona serata. Ciao Fra, buona serata. Avete ascoltato Giochi di tutto. Tutto col gioco e niente per gioco. Di Francesco Rigori e Stefano Giacchè.